ci sei qua? Oh, aspetta. Vai, tranquillo. Eccomi qua. Ok, perfetto. È cambiato? Va bene. Ok. Senti questa cosa. Stava passeggiando in spiaggia insieme a un bambino di 10 anni, approfittando della bella giornata al sole. A un certo punto ha sentito la sabbia mancargli sotto i piedi ed è finito dentro una buca piena d'acqua. Si è salvato grazie alla prontezza di riflessi della sua prestanza fisica, che gli ha permesso di aggrapparsi e tirarsi fuori da quello che poi è risultato essere un serbatoio da 500 litri interrato colmo d'acqua. È una tragedia evitata, quella di ieri mattina, sabato 3 febbraio, nella zona del Lido Sardegna, a Platamola. Se l'incidente fosse capitato al bambino, le conseguenze sarebbero state... Cioè, capito, l'apertura della cisterna era 50 per 50, avrebbe fatto scivolare il piccolo dentro il serbatoio pieno d'acqua, dal quale sarebbe stato impossibile venirne fuori. Capito? Un serbatoio da 500 litri interrato sotto la sabbia. Ma dov'è? Al Lido Iride? Lido Sardegna di Platamona parla, sicuramente Lido Iride. Ma quelle sono cose che già si sapevano nel senso che, aspetta un attimino, che lì essendoci uno stabile, qualcosa sotto l'hanno messo, quindi vai tu e trova chi l'ha messo e quanti anni fa. Ma tu stai parlando dove c'erano quelle docette? Allora aspetta che abbasso un po' i watt, mettiamo... Eccolo qua. Sto parlando dove c'è... Sì, magari è un accumulo d'acqua, boh. No, proprio serbatoio in cemento. Addirittura, vedi. Capi, prima si facevano queste cose. Io mi ricordo che prima, quando si facevano i campeggi nei pettini, c'è chi rinterrava il frigo per essere più fresco, c'è chi faceva... che rinterrava la tambullana per farci il bagno chimico e queste cose qua. Poi con l'andare del tempo, giustamente, la tambullana si marcisce e crea un fosso, ma con l'andare del tempo anche la sabbia piano piano va a comprimerla e si deteriora nel tempo, perché tanto la lamiera è molto fine. E giustamente una cosa fatta in blocchetti è più difficile che vada a deteriorarsi. Cioè, porca miseria, è pericoloso. È pericoloso perché giocando i bambini ci scende un bambino dentro. È una cosa brutta. Ma scherzi, cioè, poi non sai come comportarti, perché giustamente è un casotto. Meno male che insomma non sia successo niente e tutto sia andato a finire bene. Boh, e va bene. Qua sei? Cioè? 5:25. In 5:25? In ascolto? 5:05. No, 5:05 no. No, sono con sempre del solito, perché... sto guardando anche qualcosa su internet. No, ok. Io purtroppo non posso attaccarli perché c'è il forno attaccato e se mi scatta mi rompe le scatole questa cosa. No, vabbè, ma cose così, sto guardando giusto dei video. Perché tanto mi va, se mi metto a fare, ascoltare qualcosa, aspetta, vediamo se... Ma io non lo so, questa cosa non è possibile, che non lo so. Cioè ti sta occupando internet questa roba. Sì, il fatto che ho fatto il video, non riesco a chiamare col telefono perché sembra che ce l'ho isolato. è un casotto, ma io sarei andato e gliel'avrei fatto notare. Guarda che io ogni mese la mia quota fissa di da contratto la pago, però non posso, cioè, stare così. Sì, vabbè, è che purtroppo meno male, provo a fare una telefonata, ma ho provato anche dal telefonino, ho fatto il numero di casa, mi dice che non è quello, ho fatto il mio numero di telefono, mi dice che non è quello. Molte volte se ti vogliono snobbare ti snobbano. Basta andarci di persona, te l'ho detto, vacci di persona, fai vedere il video e mi dice vorrei cambiare, devo dare la DZ perché non posso più continuare così. Sì, è un casotto, effettivamente è che purtroppo qua dove prende è Tim è l'unico che prende. Wind non è provato? Lascia perdere. Non va? Solo Tim. E Vodafone? Vodafone dovrebbe andare? Vodafone va, ma ho un riscontro con Vodafone perché praticamente mi devono prendere dei soldi dal conto e è successo che non mi hanno presi a fine mese e mi hanno fatto un accredito di 400 euro, come che io devo pagare il telefono nuovo, invece lo sto pagando mensilmente, capito? Sono già finito anche di pagarlo. E allora continuamente vogliono le 400 euro, ma mai le prenderanno, perché gliel'ho già date. Ci sono tutti quanti testimoniati anche queste cose, perché loro si prelevano i soldi dal banco, ma capito? Sono una cosa allucinante, basta prendere e bloccarli così se mai si vedono. Cosa li blocchi? Purtroppo il telefono ti serve. Adesso per dire mi sta mandando una cosa da pagare di 5 euro, no? Ma non sono per le 5, ma se te le ho già date, perché te le devo continuare a dare? Tutte le prese dal mio conto corrente e me le stai continuando a chiedere. Perché loro poi a volte non leggiamo, a volte, ma io sono il primo e quando faccio queste cose qua non leggo e magari firmo e poi c'è la maxi cosa fine contratto, c'è da aggiungere i soldi, poi a baita, da sapere, è tutta una truffa. No, io ho dato il mio codice per poter prelevare i soldi direttamente dal conto, e quindi devo stare lì, e poi non è che tu dopo 2 mesi, 3 mesi mi scrivi che ci vogliono ancora 5 euro per determinare il contratto, no, ti leggo già dati, cosa vuoi? Aspetta, io adesso prendo e inizio a cambiare operatori dell'energia e vedi. Rimango sempre attaccato, cioè chi mi offre di meno vado. Allora Gabri, guarda, sinceramente funziona così. Io ne stavo parlando proprio oggi con mia sorella, perché ha un'amica all'Enel e gli ha detto, guarda Antonè, cambia datore perché rifornitore, perché noi non abbiamo la possibilità di farti risparmiare. Però dal momento che tu cambi, cosa succede? Che te ne fanno da loro, quindi loro per richiamarti è come i telefonini, no? Ti fanno un'offerta migliore. Sto pagando, mi sembra, 13 centesimi a kilowatt ad ora, più le spese che ci sono, gli oneri e tutto quanto, però in confronto a me che ne pago 30, hai capito? Già sta risparmiando la metà. E tu non te ne sei ancora andato dove sì? Purtroppo non posso perché devo finire il contratto, capito? Perché questo contratto è annuale e quindi a me non mi ha potuto cambiare. Devo finire l'anno, dopodiché posso cambiare. Ah, interessante. Io biglio, io quando prendo adesso il primo che mi fa anche un centesimo di meno cambio, non me ne frega niente. Così vediamo un pochino, ma proprio non mi interessa. dice, ma staccano la luce, non te la staccano la luce, perché subentra quello nuovo. Ciao, buonasera a tutti. Pillomi! No, Santo, dopo ti faccio entrare. Allora, non è che la luce non te la staccano, capì? Chiudo questo argomento e poi ti faccio entrare un po'. Io avevo una bolletta, te l'ho anche già detto, di 5.900 euro, 5.900 euro da pagare con E.ON. Ok, sono andato da lei e gli ho detto, guardi, io ho una bolletta così, ma non la pagherò mai, neanche se mi sparate, ma per il semplice motivo che ho detto, no, né un albergo, né una casa di appuntamenti, né un castello, quindi ho una casa di 60 metri quadri, l'ha già detto, non ci sono mai a casa, spiegatemi il motivo perché io devo pagare così quando non ci sono mai. E loro mi hanno detto, perché questo è mercato libero, allora facciamo una cosa, io non te ne pago, perché non gliene pago. Trovate il modo per far sì che io abbia la luce in casa togliendomi questa bolletta qua, ma perché non passi con Enel Energia o Enel Distribuzione, adesso non mi ricordo, non voglio dirti una stupidaggine. E detto com'è? Ehi, paghi molto di meno, io farò il contratto. Ho fatto il contratto, ma lo sai quanto mi hanno tartassato E.ON per dargli questi soldi qua? Sono arrivati a tutt'oggi a 1.800 euro, se gli davo 1.800 euro mi lasciavano in pace. Ma tu puoi continuare a disturbarmi, gli ho detto, perché tanto non te ne do lo stesso di soldi. Vai Antu, dai, se no ti addormenti. Kappa, no, ero già addormentato. Dopo un tratto mi sono svegliato e ho sentito voi. Perché noi siamo qui, là e dappertutto. Vai Gabi. Ciao Antu, buonasera. Buonasera Antonio. Ma fai bene, anzi l'avrei disturbato io a loro. Avrei chiamato e avrei detto, ascolti, quanto vi devo dare? E loro, 1.800, ah va bene, tu e chiudi. Poi dopo due minuti richiami, ascolti, sono, quanto le devo dare? 1.800 e tu. Dopo richiami dopo un'altra mezz'ora, ascolti, ma quanto vi devo dare? Poi per disturbarli così. E poi gli avete ascolto, ma disturbando vi sto, sì. Anche voi a me, quindi non mi chiamate, intanto non vai a pago. Poi fate quello che volete. Il fatto che queste cose fin quando sono civili va anche bene. Il problema è quando passano sul penale che cominciano a mandare questi gas ai livelli e so fare roba, quella è roba brutta, quella è già roba brutta. Però io non gliela avrei pagato, mercato libero. Allora tu perché sei mercato libero mi devi mandare una bolletta di 50.000 euro, ma di cosa stiamo scherzando, ma di cosa stiamo parlando? Cioè usura, siamo arrivati a livelli usura, usurai? Quella è usura autorizzata, Vai. No, ma il fatto è, vabbè, io ho fatto anche, guarda, credimi capì, ho fatto anche venire l'ufficiale giudiziario qua, non me ne fregava niente, no, ma proprio perché non ho, quando io, sai quando mi punto, no, e non te ne do, non è che puoi aprire il cielo quello che vuoi. È venuto, buonasera, ma prego si accomodi, si è accomodato. Mi ha detto, ragazzi, sapete che avete fatto una buona mossa voi. Ha detto che tu, ma mi pigli di baroguro, scusando la frase. Mi ha detto, perché voi pagate 600 euro al mese, è giusto che una famiglia 600 euro al mese non ce la fa a pagarla, però abbiamo rivalutato la vostra situazione, quindi anziché pagare 600 euro al mese, se ne pagate per dire 150, vi possiamo venire incontro, ovvero? E io, ma io sono senza lavoro, 150 euro per darli a voi, li do a miei figli che stanno, che devono mangiare, e dai, una giornatina in nero, quello e quell'altro, 150 euro sono meglio di 600, aiutami, facciamo come vuoi tu. E praticamente la rata da 600 euro, capito, mi hanno abbassato a 150 euro, hai capito? Io pensavo che venivano a prendermi anche le sedie. Non te ne prendono sedie, no. Non te ne prendono sedie perché lo sanno anche loro che non te ne possono prendere sedie. Non te ne possono prendere. Sono corbellerie quelle che dicono. Sono corbellerie. Io non gliela avrei, io proprio guarda, non. Io non l'avrei fatto neanche entrare, ma proprio assolutamente, proprio l'avrei preso, guardi son scemo, guardi, prendo, sono scemo, non c'entri. No, invece io l'ho fatto entrare perché mi sentivo, e tanto ero sulle mie, quindi non è che ero destinato così. Poi però, sai, per vivere un po' tranquillamente, perché giustamente, serenamente, lo sbaglio è stato il mio, quindi voglio dire, mi sta dando un'opportunità, perché non coglierla? Perché io avevo tante finanziarie aperte, no? Quindi una collata all'altra, ma da fare cosa ho fatto? Da tutte le finanziarie che avevo le ho unite, però sai, 100 euro qua, 100 euro qua, 100 euro qua, 200 qua, sembra così, quando ti fanno la finanziaria, che tu dici, vabbè, 100 euro al mese, dove sia, e metti da parte, te ne fai una. Poi la ma che 100 euro al mese, vabbè, sono due gesti, no, non te ne accorgi. Tra una cosa e l'altra, poi, quando vengono compatte, tutte quante assieme, se ti trovi in panne, dici, ma quanto ti posso fare una cosa del genere? E allora lì, insomma, mi è venuta pesante, devo dire la verità. Ma questo quando? Ti parlo nel 2014, quando io praticamente ho perso il lavoro e mi ha dato la liquidazione, che erano di circa 4-5 mila euro. Sinché avevo quei 4-5 mila euro disponibili, continuavo sempre a pagarli, dopodiché la cosa è decaduta, nel senso, boh, basta, non vedo più, non credo più. Vabbè, prima doveva mangiare a casa, poi ti pago la roba, ma è giusto che sia così, è giusto così, purtroppo, ma già lo capiscono, quelli che sono proprio, che vogliono sparati, sono quelli del recupero crediti, che un amico mio lo stavano facendo uscire di testa. Ma proprio uscire di testa, abbiamo trovato gli incubi, lo chiamavano alle 8:30 di sera. Con gli incubi, proprio incubi. Ti parlo di una decina di anni fa. E alla fine abbiamo aiutato per togliersi da mezzo alle storie e si è pagato tutto quanto e niente, però lo stavano facendo uscire di testa, stava impazzendo. Quelli vogliono presi e sparati, perché loro, se riescono a recuperare tot, hanno questo, diciamo, guadagnano, capito? Pur di far star male la gente, non ne frega niente, sono maleducati, sono, che ne sono? Si può dire merdosi? Sì, si può dire. Va bene, vai Antonio. A me ancora sono giunti a girarmi di fattori, perché pure io qualche problemino ce l'ho, perché insomma, se oggi lavoro e domani ho 4 di 5 di senza travagliare, come te voi a pagarmi le cose. Io qualche cosa già ce l'ho, a dire che bene di qua che fa una cosa, da dove vuoi cominciare a punirmi se puntine, perché come faccio? O mangio o pago la roba. Sai quanta roba avrei voluto pagare anch'io, però come faccio se non ho un lavoro fisso? Cioè, se non ho un lavoro che devo andare tutti i giorni. Carità, guarda, ho una massa di currodoni, e poi, per carità, guarda, non ne posso vedere manco uno di saliente. No, vabbè, io devo essere sincero, ne sono uscito perché ho dato di matto, nel senso che un po' di menefreghismo ci vuole anche in certe cose, no? tra virgolette, chi ci ha chiamato? Io ero al mare, capito? Ero al mare a Pazzona, a casa, prendendo il sole, facendo il bagno, risponde, mi scusa al telefono, pronto sono, va bene, mi dica, e lì deve dare 5.900 euro, sì, ma io sono disperato, guardi, mi sto per buttare dal ponte, poi, no, guardi, non sto lavorando, se riesco a fare 20 euro, li do a mio figlio a mangiare, questa qua si è messa a piangere, faccia conto che non l'ha chiamata. Ma vai! Cazzo, io a Pazzona, ma ti bari che mi devo fare, ma lascia a pelle, ma che cacchio me ne fotte, vai, vive, lascia vivere, e io stavo vivendo meglio di lei. L'hai fatta sentire in colpa. Sì. Addirittura un giorno, guardi la sua situazione, l'abbiamo rivalutata, anziché 5.900 chiudiamo tutto con 3.900, anche 3.500 e poi basta, dai, facciamo così che, no, guardi, continuate a abbassare perché la soglia è molto alta ancora. Abbasciane, vedrai che ti dicono, ascolti, ci dà 20 euro e togliamo tutto. No, ma ultimamente mi è arrivata una lettera, sempre di ONU, sempre questo recupero di crediti, di 1.200 euro, l'ho usata per accendere il fuoco. Sì, già abbasciane, vedrai la prossima arrivare ai 1.000, te l'ho detto che abbassano, la voglia. È un casino. Bisogna andare, aspetta, qua ci sono le aspirapolveri accese, e bisogna, a volte anche questa gente qua, caspita, chissà quanti ne vedono ogni giorno, quanti ne sentono, quanti... Sì, vabbè, ma poi vabbè, io voglio dire, allora, mi dai la possibilità, ok, ci sto, te li do piano, giustamente mi devi dare anche la possibilità di darteli, se io la possibilità di darteli non ce l'ho, mi vedi che sono nulla a tenere, non mi puoi prendere niente, cosa mi prendi? No, non ti prendono nulla, non ti prendono nulla. Non ti prendono nulla a te, perché allora, tu ricordati una cosa, chi ti può prendere qualcosa è un privato, per esempio se io a te ti devo dare, se io, cosa? Il cane. Sono la mamma adesso. Se tu, per esempio, se io a te, io compro qualcosa da te, no? Segui, io compro qualcosa da te, compro... oppure tu sei un artigiano, sei un falegname, io a te ti ordino tre porte. Tu mi consegni le porte, aspettate un attimino e vai a riprendere. Ciao Greta, ciao! Ciao! Ciao! Va bene, dai! Vai Antonio! Cappa! Ma che rumorino ha fatto? Che rumorino? No, forse ero io la sensazione. Mi pare che era un fruscio, mi pare. Già è così già. È un macello, cioè, devo pagare quello e quell'altro. Io qua stavo diventando scemo nel primo periodo. Adesso poco ne sto uscendo, sempre senza di là. Ah, di tacco, fermo una cosa, paghiamo lo riusciamo a pagare. E tanto, non già non si può garisci uno dai nocchi. Quindi adesso sto cercando di pagare quello che riesco a pagare. E via. Cioè, ma per la volta è uscito il risotto. Senza lavorare, senza niente. cioè con una famiglia a carico, cosa stiamo vendendo? Okay. Cioè, cavolo, il primo periodo cazzo era terribile. Cioè, quello che lavoravo, il poco che lavoravo, ce lo mettevo tutto in affitti, in cose, in casini, Albanoa e cose, perché poi, per carità, qua, naggio passando, naggio. Allora, il primo che viene, dico, quando vuoi cominciare a pigliarmi la roba, oltre che sono un poveraccio, non ho niente, ragazzi. Magari fossi a travagliare ogni anno, avrei pagato tutto qua, proprio, avrei pagato tutto, ti giuro qua. Sì, vabbè, ma tanto a te non ti fanno niente, non ti fanno niente perché poi è un figlio a carico e insomma non riescono a... Un avvocato mi ha detto a me, dal ragno, cioè nel buco, se non c'è il ragno, come fai a toglierlo? Quindi tu puoi stare lì a girarci dentro il buco, ma se non c'è il ragno non c'è, no? E quindi mi ha fatto capire che se tu le cose non ce le hai, come fai a darle? Se le avessi avute con la buona volontà, piano piano le avresti date, giustamente. Ma se non ti mettono, ma tu dici dagli assistenti sociali e dire guarda io ho queste bollette qua da pagare, ma non sono senza lavoro, cosa devo fare? Non ce la faccio, non ce n'è, non ce n'è da pagare. Se avessi avuto quel lavoro le avrei pagate, ma non posso. Allora, poco fa vi stavo dicendo una cosa. Se tu vai da un artigiano e ti ordini tre porte, no? Lui te le fa, te le consegna e non gliele paghi. Quello lì può mettere un avvocato che in quei casi ti possono pignorare di littino, ti possono per esempio pignorare la macchina, ti possono pignorare tutte le cose superflue che hai in casa e vengono e le prendono perché la prima volta non li fai entrare, la seconda volta non li fai entrare, la terza volta vengono la forza pubblica e puoi essere chi vuoi, te le prendono perché ti mandano un atto di precetto, poi c'è il precetto vero e proprio, poi c'è il diciamo vai a patteggiare, però se non rispondi a niente, chi su davvero manda quell'avvocato lì, quegli avvocati penalisti lì possono far pignorare e si attaccano subito alle cose che si attaccano, sono o la macchina o il conto bancario prima di entrare in casa, o la macchina o il conto bancario. Però ricordatevi una cosa, che Abano, Agenzia delle Entrate può pignorare, può mettere il fermo amministrativo delle cose mobili, per esempio macchine, queste cose qua. Quello li può, l'Agenzia delle Entrate per quella cosa può mettere il fermo amministrativo, cioè non puoi usare la macchina. Però per esempio una ditta di un privato e tu compri o ti fai fare un lavoro da un muratore e tu non lo paghi, lui si mette l'avvocato, quello per recuperare i soldi ti può far pignorare la roba superflua che c'è a casa, proprio vengo il divano, te lo prendo, ok? Cioè roba che non superi il valore, si va un divano da 100 euro, non è che ti migliaio di divano, però se ti vedono cosa ne so, TV, mega televisori, ti vedono computer, ti trovano la macchina, moto, pignorate, e te le prendono, vai ti. Sì, già può essere, questa cosa qua già... Può essere. Vabbè, però, giustamente, io già ho detto, tu se sei in difficoltà, vai, ci ho bisogno di una consulenza, perché non riesco a vivere così, mi stanno tartassando, non ho la possibilità di pagare, datemi la possibilità, vai all'ufficio giudiziario, gli spiega la tua situazione, e vedrai che ti pagano anche la luce, noi ne ho visto di queste cose, lascia perdere. Sì, guarda, un periodo. un periodo non riuscivo, cioè la verità era scendere di capo, proprio non ce la facevo un periodo. Magari la macchina se la fosse ripigliata, se vuole li chiamo anche il carattrezzi e gliela faccio portare dove voglio, tanto un ferroveccio, se la devo lampare la devo. Magari. Per carità, io rispondo subito, Dico, guardi, lei mi fa avere un buon posto di lavoro e io pago tutto quello che c'è a pagare. Tocco un tot al mese e pago quello che c'è a pagare. Così, vai così. Che ho detto, che Antonio, non ti devi preoccupare, no, a te proprio già non ti zeccano, Antonio. Proprio a te non ti cercano, perché poi perché devi dire che sei un poveraccio e non c'è niente, non sei un poveraccio. Non è, cioè, poveracci sono altre persone, non sei tu, Antonio. Non bisogna mai prendere, perché questa è la, non devi. Anto, se tu ti prendi e parli così, non risolverai mai niente. Tu non devi considerarti un poveraccio, perché è la cosa più brutta che può prendere e pensare un uomo di se stesso. Non lo devi pensare, ma non proprio lontanamente. Tu devi, dall'altra volta, te l'ho detto, devi prendere, devi andare e devi provare a fare quello che ti ho detto, che dove sapevo che stavano cercando qualcuno per fare questa cosa di scarico e carico la notte. Però guarda, una persona quando si, non devi dirlo perché non va bene, dire una cosa del genere. Purtroppo, guarda, le difficoltà ci sono in tutte le famiglie, tutte, ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue ragioni, tutti abbiamo i debiti, perché logicamente chi non ha debiti non ha nulla. E a me mi possono dire, ma io, tu se non hai debiti vuol dire che hai trovato tutta la papa pronta. Chi non è debito ha trovato la papa pronta, ha trovato la casa pronta, ha trovato i soldi dalla mamma e dal babbo, ha trovato tutto, quindi non, chi non va a debiti non va nuda, quindi non ti classificare poveraccio, tu ti devi considerare una persona come tutti, perché oggi siamo tutti nella stessa barca, tutti nella stessa barca. Fidati di Gavino, vai, riprendi. Cappa. Sì, vabbè. Cosa c'è? Mi sono intrippato. Purtroppo è così, tanto già a me poco mi possono fare questi signori qua. Cioè prima o poi mi chiameranno dall'ufficio delle entrate prima o poi, però glielo dico chiaramente, non c'ho lavoro e non posso pagare nulla, sono seguito dai servizi sociali, ti vai a pagare cose, sì. Cioè, due di travagli e quattro di no, non ve la fai, magari avessi avuto un buon servizio, che lo sto sempre sperando. Anto, quello purtroppo tu non devi lo stesso queste cose qua, non ti devi prendere, non ti devi denigrare, non ti devi neanche prendere, come si suol dire, automiliarti per questa gente qua. Tu devi pensare che hai un figlio e una famiglia e stai facendo il massimo, quindi è quella una ricchezza. Mi guarda che ai giorni d'oggi avere una famiglia è una ricchezza grande. Quindi tu devi pensare a tuo figlio. Buon finito. Io tutte le cose che faccio le faccio per loro, perché a me, guarda, proprio di me non mi interessa niente, io posso uscire anche scalzo, no, però la prima cosa è voler stare bene a casa, bisogna stare bene a casa, mia moglie lavora, io lavoro, bisogna apprendere a stare prima bene a casa, poi non bisogna né autoumiliarsi oppure dire quelle cose, perché non è bello, già si risolve tutto, ci vuole la volontà, vai. Sì, va bene, a meno che poi, insomma, devi, io non lo so, Antonio, la tua strada come l'hai fatta, bisogna fare i tuoi passi per poter parlare di te, quindi io parlo di come ho affrontato la mia gioventù e di come oggi sono arrivato a quello che oggi ho, anch'io da ragazzo non sono state tutte rose e fiori, anzi ho ingoiato bocconi amari, ma amari, nonostante tutto il mio principale, il mio datore di lavoro era mio zio e nonché mio padrino, ma grazie a Dio se n'è andato e va bene così. Però nell'ambito del lavoro ho acquisito delle qualità che oggi mi hanno potuto, insomma, portare avanti e dire no, tu se mi vuoi io voglio questo, se no arrangiati, ne trovo di lavoro. Ma perché? Perché sono stato determinato nelle mie scelte e insomma sono andato avanti così, capito? Quindi non è sempre abbassarti i pantaloni e dare la chiappetta del sedere, scusami la frase, è anche cercare di avere un po' di coraggio, affrontare le cose e dire vuoi che te lo faccia? Molto bene, tu mi devi dare questo, perché io so di valere questo e so di fartelo bene. Queste sono le cose che uno deve cercare di affrontare. Io ho ascoltato anche il discorso di Gavino, cose che io per dire non avrei mai pensato, ho visto che lui fa lavorare il suo mezzo a un determinato prezzo, a ora, e fa bene, ma perché deve dare una qualità e una come si dice, è una aiuta, porca miseria, un prezzo al proprio mezzo, capito? E quindi insomma ognuno deve cercare di far valere quello che si ha e quello che si è. Vai Antonio. Io come si dice, io mi metto non ma qua grazie a Dio, sì vabbè, un po' di difficoltà, però già non mi manca, diciamo, niente di altro genere. Grazie a Dio il bambino sto facendo di tutto per tenerlo bene, ma credimi, di tutto. Sono andato, quando ero proprio a zero, sono andato a fare di tutto e di più, per tenere la famiglia come si deve. Poi io posso anche, così ci pure la cuta, me la futti nuda com'è. Però qua devono vivere bene loro. Sì, ma ci credo. No, ma il discorso che ho voluto farti io è che tu devi cercare di fare nel tuo piccolo una, non dico una sorta di impresa, ma una cosa come per dire io valgo questo e quindi devo far valere quello che so fare, e ti butti un po' a tutto e poi vedrai che le cose, guarda, a me sinceramente io sto mollando dei lavori, ma perché proprio non ne ho voglia più, ma sono dei piccoli lavori che ce la guadagnare, però sinceramente la mia voglia sta andando a svanire per il semplice motivo che non dico che mi basta quello che ho, perché per carità puoi chiedere a chiunque, anche il miliardario non le basta mai quello che ha, però uno si adatta, dice vabbè me lo faccio bastare, però sto mollando dei lavori che devi andare un sabato e ti guadagni per dire 150 euro, che però non è una giugana, e cerco di fare altre cose per poter migliorare sempre di più, cioè le rogne chiamiamo le rogne, i lavoretti piccoli che gli altri non ti fanno, oppure ti fanno e ti chiedono, che ne so, 4-5 mila euro e tu stai cercando a me perché io te ne chiedo 200-300 euro, non mi va bene, non mi va bene, perché non te lo fai fare da chi di dovere e paghi quelle 2-3 mila euro in più, capito? Quindi se tu a me mi cerchi perché sai che so lavorare, però allo stesso tempo mi devi anche pagare. Non devi cercare a me solo perché io ti faccio il prezzo della giornata, no, non funziona così. Ormai le cose sono arrivate al punto che c'è da fare quello, bene, ci vogliono 3.000 euro, e quanto sei caro, non ne faccio, capito? Vai Gavino. Sì, sì, ma infatti a volte bisogna anche prendere e dire di no. Io te l'ho detto tutti come funziona, io quando ho il mezzo che scarico te l'ho detto come funziona. E non è che mi vergogno a dirlo, io il mezzo lo faccio lavorare. Perché? Però, se lo vuoi è quel tanto. Se lo vuoi è quel tanto. Io per meno di. E soprattutto c'è da dire una cosa, che sto evitando anche lavori dei. Perché l'altro giorno ho fatto un servizio a un parente, per carità, non è valsa neanche la candela di farglielo, solo che glielo fai e basta, ma il mezzo mio quando esce, se lo vuoi per andare, se lo vuoi per farti il trasloco, queste cose qua, io prendo e te lo porto, cash a ora, se non ti prendi una motocarrozzella e te lo fai fare dalla motocarrozzella, da lì non si scappa, è così, e a volte, è brutto dirlo, conviene anche lasciarlo fermo, perché è inutile che io ti prendo, uno mi dice quanto vuoi per fare un viaggio da Sassari a Ploaghe, ci sono quelli che lo fanno per 30 euro, io da Sassari a Ploaghe per 30 euro non ci vado, capito? Io me li faccio i viaggi col furgone, tanto, perché anche non è che io quando mi capita il viaggio lo faccio sempre, lo faccio, quando è scarico si fa sempre. Tino ha ragione, devi fare valere il tuo operato, perché altrimenti te lo fai fare, altrimenti glielo dici, va, fatelo, io la mia manovra vale questo tanto. Ti va bene? Sì, ti va bene? No. E allora fatelo va. A me quando mi chiedono, ma un viaggio così, il furgone vale questo tanto. Ma è troppo, chiama l'autocarrozzella. O se no metti 20 euro di gasolio sotto la pedana o sotto quello che devi portare e vedi se va da solo a casa tua. Ma è così però. È così, cioè no, non si può lavorare. Io ho sentito gente che lavora per cifre assurde, pure a me è successa una cosa del genere. Sono andato da Ghiso, di si fare una discesa da Predagneta a fare la rettifica, da voi mi ha chiamato a andare a ritirarla. Cata, me ne vogliamo un in mano 3 euro, ho detto, ma sto scherzando cosa? Vai, che non è possibile che si travaglie. Vabbè, gliel'ho fatta, gliel'ho dal giorno non gli ho fatto più niente. Finito. Cioè, ma buffonenti sei. Cioè, pigli la deciarda, te la buccia per Daniela, poi vado a riprenderla, a fare la rettifica, te la riporto in officina, che se mi vuoi da 3 euro. Che c'è la benzina che me la paga qua. No, non va bene. Allora, diciamo la verità, uno non deve esagerare, ok? Non deve esagerare, però non mi devi neanche prendere più in giro, stavo per dire una parolaccia. Perché se tu vuoi che te lo faccia io, tu devi stare alle mie condizioni. Se a te le mie condizioni non ti vanno bene, allora cercati un altro. Allora io ti posso garantire una cosa, oggi come oggi gente qualificata non ne trovi, nel senso che se uno sa fare un lavoro, si deve far pagare, perché Io sto cercando un manovale, ma un manovale valido, un manovale che non è che devo prenderlo per la mano e portarlo e fare quello, fare quell'altro, no, deve già sapere dove fare, perché il manovale, perlomeno in mezza paletta parlo così, devono già sapere cosa mi serve e cosa non mi serve per fare un tetto. Beh, non riesce a trovarne, ma perché? No, io lì non ci salgo, cazzo, non stai scherzando, ma se ne è caro, lasciatene a casa, cioè, voglio dire, io il lavoro che faccio io è questo, se non ti interessa, quanto mi dai, cosa sai fare? Ma io non l'ho mai fatto, allora cosa, quanto vuoi? Cioè, anche queste cose qua, sono da valutare, io devo essere sincero. Ho cercato delle persone, ci ho fatto anche brutte figure, perché le ho portate in cantiere e io faccio di questo, faccio quell'altro, faccio questo, ok, l'ho messo alla prova e ho detto guarda, per me te ne puoi andare già dalla voce, ma siccome non sono io che comando, è il mio principale, vediamo cosa ne pensa lui. L'ho chiamato, come fatti? Per me se ne può andare anche a voce. E me lo dici, magari lo teniamo, fai quello che vuoi. Effettivamente ha finito il mese e se n'è andato, ma perché non era una persona da tenere. Io la verità non lo so fare quel lavoro, allora, mi devi dire come ti devo fare, poi dopo una settimana capisco, la verità ti dico, però mi ci pongo, non sto lì a dirti quanto mi dai, quanto non mi dai, quando mi paghi c'è io, no? È un problema, però logicamente non mi puoi pigliare manco Baruguru, ecco come dove la penso io, io la verità non lo so fare il manovale, però se mi fai vedere come devo farlo lo faccio. Avanti Gavi. Gavi non si è spostato, no, tanto il problema è un altro, che vabbè, noi adesso non ne stiamo cercando perché la squadra è completa. Però io sto parlando qualche anno fa, abbiamo preso questo ragazzo che l'ho avuto io di sabato a lavorare con me per dei lavoretti che avevo in corso, mi ha dato la mano, però sinceramente non era un ragazzo da cantiere, quindi io ho provato a tenerlo, ho provato anche a spiegargli delle cose, ho provato anche ad aiutarlo, nel senso che sapevo che aveva bisogno, però sinceramente parlando era un ragazzo che non gli fregava niente, voleva solo i soldi, quando a fine mese basta, cioè il passo felpato, calmo calmo, non si ammazzava, ma io non ti sto dicendo che ti devi ammazzare, però devi farmi vedere anche chi hai la voglia di poter fare le cose, cioè se tu arrivi com'è, e aspetti che io ti dica dai prendiamo i ferri, facciamo questo, mentre invece una cosa diversa sarebbe che tu mi dicessi cosa c'è da fare, riprendo i ferri, andiamo a fare quello, io vedo in te una persona che ha voglia di fare le cose, capito tu cosa intendo dire? Sì, ho capito. Purtroppo la gente non ne ha voglia di lavorare, a me quando mi chiama Daniele, stasera puoi venire, pronti, arrivo, stasera sto arrivando, stasera 10 minuti prima puoi arrivare, pronti, sto arrivando, ma io non dico mai di no, sono anche troppo buono, va. Io vado sempre, subito. Prendo la moto e salgo subito. No, non sto neanche a dire ma sì, bumba, no. Vabbè, certo, non è che. Però sai, molte volte non è a dire non si trova lavoro. No, non è, lavoro ce n'è anche troppo, perché ce n'è anche troppo. È che purtroppo non riesce a trovare delle persone che sono pronte per farlo, hai capito? Sì, anche, cioè, non solo le bombole, no, anche il lavoro di Roccavo, cioè, dove lavoro io, lì, gente che è andata 2 giorni e si è fuggita da me, perché non è un lavoro che ci vogliono palle per farlo, ore, devi lavorare zitto, ore e ore, il Gavino lo sa, meglio di me, Sai quanta gente si è fuggita, non ha fatto manco una ghetta, che ne ho, l'ho visto io con i miei occhi. Avanti, capi. Sì, si è spostato, guardia, si è spostato. Arriva subito. Beh, con i miei occhi. Come lo fa perché? Perché se sto lì a insegnare lavoro perdo tempo io, ok? Perdendo tempo io non produco, non producendo non mi pagano e così via, una catena. Sì, funziona così. Io purtroppo la verità, io il lavoro del muratore, del manovale, non lo conosco. Ho fatto due giornate così in cantiere, a Carrà, però io l'ho fatto, però non lo conosco. Sì, vabbè, ma non è quello, io parlo in generale, ho parlato del muratore, ma io effettivamente roba del muratore non sto più facendo. Io adesso faccio più che altro roba di movimento terra, di trasporti e quant'altro, capito? Spostamento con il camion. Sono rientrato, eh? Ecco. Stavo dicendo a Tino che è un bel dirigente quando lavoro col service. Non hai fatto manco una guida e sono fuggiti. Sì, lo so, non lo metto in dubbio, è pesante, anche quello è pesante, per carità. Devi saperti muovere, io per dire, se dovessi andare a fare... Allora, io ho provato anche a lavorare per 6 mesi, ho lavorato, nella ditta dove lavora mia sorella, alla T-Mobile, ok? Ma perché ero senza far niente, ho detto vabbè dai proviamo, se mi piace, effettivamente non mi piaceva, ma sono stato per necessità, e 6 mesi ho detto no guarda, no, non è un lavoro che fa per me, non ho, a prescindere la paga era buona, però non è un lavoro che, però mi ha aiutato perché ho lavorato 6 mesi, caspita ho mandato avanti la famiglia, ho pagato le cose, però non era il mio lavoro. Ed effettivamente fare lì il trasportatore di mobili, di piazzare mobili, piazzare cucine, portare su al quarto piano tutti, che ne so, una cucina completa, senza ascensore, ti rampano anche, cioè io non, sinceramente non è un lavoro che fa per me, è per questione, è per gente magari un pochino più longilinea di me, più magra, più grintosa, più giovanile, allora sì, per me no però, quindi non è che, poi vabbè se volevo continuare ero anche un po' inquadrato in altre cose, quindi potevo fare anche altri tipi di lavori, ma non mi interessava l'articolo, capito? Io ormai non mi piaceva più lavorare lì, l'ho fatto giusto per necessità, capito? Vai Gabi. Guarda, lavoro, si dice, fai il lavoro che più ti piace e non lavorerai un giorno della tua vita. Io poco fa ho detto che ho portato gente, ha fatto anche brutte figure, io gente ormai non ne chiamo neanche più io, perché è capitato di portare persone che si spacciavano per lavorature, per cose, alle 5 di sera li vedevi coricati nelle panchine dei paesi che avevano mal di schiena, che avevano quello. Purtroppo tutti i lavori sono pesanti, tutti, però bisogna anche capire qual è il lavoro che conviene e il lavoro che non conviene. Antu, io ti posso dire una cosa, cercati un lavoro vero, non fare il service, io sto scherzando, io ormai per me, poi va a finire che diventa anche una droga, quello è un lavoro che diventa una droga, perché è come il pescatore, quando è a mare non vede l'ora di arrivare a terra, e quando è a terra non vede l'ora di prendere, mollare le ormeggi e andare a mare. E così è il mio lavoro. Non vedi l'ora, poi ti rendi conto che vuoi stare a casa, ma arrivato a un punto la famiglia devi anche prendere, devi pensare alla famiglia. E non è una cosa che può fare un padre di famiglia, quindi io non tarderò a cambiare stile di vita, ma proprio non tarderò, ma perché una volta che hai famiglia, una volta che hai degli impegni, non puoi più fare quel tipo di lavoro lì. Largo ai giovani, perché anche a livelli mentali, psicologici e queste cose qua, no, non è che non si può fare all'infinito, non si può fare all'infinito, poi soprattutto nelle condizioni con le quali siete voi, non si può fare. Tu lo sai come lavoriamo noi, che è diverso, noi lavoriamo in modo diverso da tutti, con un tipo di assicurazione e di soldi, però è un inquadramento diverso. Quel lavoro si può fare se ti garantiscono sia il contratto stagionale e poi d'inverno ti riassumo part time, vieni 4 ore al giorno in capannone, ti do questo tanto con un contratto part time. Ci sono tante soluzioni, però non si può più fare a livello di stagionale padre di famiglia. Infatti ti ho detto l'altra volta, guarda, chiedi di là che sicuramente stanno dove c'è Bartolini, queste cose qui, e figure come la tua la cercano. Sì, lo so, adesso mi sto arrangiando con le bombole, sto andando lì, mi sto arrangiando così, capito? Oh, cazzo, sono 60, cioè faccio tutto il giorno, sono 60 euro al giorno, va bene, non è poco, Sì. Boh, non lo so, Anto, non lo so, vedi tu. Io non so cosa dirti. Va bene. Signori, io sono arrivato al punto di chiudere le trasmissioni perché domani mattina la sveglia è presto. Quindi devo chiudere. E con questo, visto che ho il mic, vi saluto. Dai, buonanotte Tino, buonanotte Antonio, buonanotte a chi per caso si è fermato qua sul canale 12 a fare un po' di ascolto. Ciao, a domani. Sì, dai, anch'io tanto innanzitutto devo prepararmi una cosa per domani, che non so cosa mangiare, quindi devo vedere un pochino cosa prepararmi. Il solito panino mi sta stressando e quindi devo prepararmi la sacca e poi niente, un po' di carica, vediamo cosa c'è da fare. Va bene, Gabi, dai, sentiamo domani e niente, alle prossime, dai. Ciao, buon carica, buon corretti, buon tutto, riprendi Anto. Oh, Gabino, buon tutto, buonanotte, ci risentiamo alle prossime, ciao. Sì, ciao Anto, dai, chiudo anche io, ci sentiamo Anto, dai, a domani. Ciao a te, adesso vado anch'io a nanna, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.